Guarda, quello che è successo in questi 2 giorni è tutto a scopo promozionale per il film, è stato organizzato e finirà tutto, perché è stato deciso dalla produzione della Rai Cinema di poter dare, come dire, un colpo promozionale a questo film, ma nient'altro, non credere, perché cosa vuoi, non può essere vero, cioè non può nella realtà, il cinema è anche finzione, ma nella realtà non può accadere tutto quello che stiamo in queste ore ascoltando, no, è tutto deciso, è stato tutto deciso dall'ufficio stampa, lui si è prestato e grazie per questa grossa promozione al film. Per questo tutto, tutto, niente, niente.